Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Oggi vi proponiamo una puntata decisamente scintillante. Quello che stiamo attraversando, adesso vi spiego perché ovviamente, è un anno complesso dal punto di vista economico e per ogni tipo di investimento. C'è però un segmento che sembra non conoscere crisi, è l'oro. Tanti fattori stanno portando un'attenzione sempre maggiore intorno a questa opportunità di investimento e dall'inizio dell'anno l'apprezzamento delle quotazioni è di oltre il 20%. E dopo quello degli ultimi giorni, stamattina è stato stabilito un nuovo record storico, sempre per quello che riguarda il prezzo, a $1,050 l'oncia, grazie anche alla debolezza, anzi grazie soprattutto alla debolezza del dollaro sul mercato dei cambi. Cosa sta spingendo gli acquisti sul metallo prezioso, oltre alla debolezza del biglietto verde? È un trend che si è accentuato da un paio di giorni sulle indiscrezioni secondo cui i paesi del Golfo Persico stanno valutando la possibilità di costituire una nuova valuta che rimpiazzi il dollaro nelle transazioni petrolifere. La smentita è arrivata, ma restano i dubbi sulle prospettive della divisa americana e gli investitori preferiscono spostare i loro averi in lingotti. Questa tendenza è accentuata anche nelle nuove abitudini di investimento degli investitori italiani, che appunto stanno riscoprendo questa opportunità che protegge dall'inflazione e sicuramente conserva il suo valore nel lungo periodo. Allora stamattina cercheremo di scoprire quali sono i modi per investire in oro. I nostri interlocutori li conosciamo molto bene perché li abbiamo già portati nelle nostre trasmissioni e oggi li incontriamo di nuovo volentieri. Buongiorno a Maurizio Mazziero, analista finanziario esperto in commodities. Mazziero, buongiorno e bentornato da noi. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. E buongiorno e bentornato anche a Roberto Binetti, amministratore delegato di Confinvest, è una società che svolge un'attività di intermediazione proprio in questo settore, per cui soprattutto lui ci spiegherà quali sono per esempio le monete più interessanti in oro su cui investire in questo momento e quali sono le attenzioni degli investitori italiani intorno a questa appunto opportunità di investimento. Binetti, bentornato. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi in diretta. I vostri interventi invece, se li volete scrivere, potete farlo al 349 238 6666. Stamattina, rispetto a questi movimenti valutari, le cose non cambiano perché il dollaro continua ad essere piuttosto in difficoltà sull'euro, il rapporto di cambio adesso è attestato a 1,47,73. Il mercato azionario guarda invece alle trimestrali, ieri sera è arrivata quella di Alcoa, gigante mondiale dell'alluminio, peraltro anche questo è un tema interessante. Complessivamente come stanno andando le materie prime? Sicuramente con Maurizio Mazziero stamattina riusciremo a disegnare un affresco generale su questo comparto. Allora, la trimestrale di Alcoa è stata migliore delle attese, il titolo nella sessione after hour ieri sera del mercato americano è cresciuto di oltre il 6% e in ogni caso questo bilancio stamattina sta spingendo tutti i titoli del settore minerario in generale in Europa, ma soprattutto spinge i listini. Parigi più 1,26, Francoforte più 1,18, Londra più 0,58, Milano più 0,90%. Listini che peraltro erano partiti anche meglio stamattina, poi hanno un po' rallentato la loro corsa. A Piazza Affari acquisti sui titoli delle banche popolari, il Banco Popolare più 4,32%, la Popolare di Milano più 2,64%, Pirelli Bene più 3,28%, Bulgari più 2,45%, Prismian più 2,43%. Abbiamo un rialzo di oltre 2 punti anche per CIR, per Fiat, per Mediolanum e per Italcementi. Le problematiche del Premier invece in queste ore stanno spingendo verso il basso Mediaset, che è in calo, è il peggior titolo, è in calo dello 0,8%, segue Saipem meno 0,6%, Ansaldo meno 0,4%. Ricordiamo solo per concludere che oggi si riunisce a Venezia la Banca Centrale Europea per decidere sui tassi, che non dovrebbero essere toccati, rimarranno sicuramente all'1%, ma vedremo dalla laguna il numero uno della BCE Trichet quali indicazioni formulerà sul futuro della politica monetaria europea. Adesso lasciamo la borsa, ma rimaniamo sui mercati, ma su quelli dell'oro. È corsa all'oro sui mercati mondiali. Il metallo prezioso ha messo a segno una serie di record, raggiungendo ieri sul mercato di Londra il nuovo massimo storico di $1,044,82 l'oncia, superando così il precedente picco di $1,033,90 segnato a marzo 2008, proprio nel pieno della crisi finanziaria mondiale. Si tratta di una nuova temporanea impennata o è il segnale di un movimento destinato a durare? Le nuove preoccupazioni per un ritorno di pressioni inflazionistiche e la prospettiva di un ulteriore indebolimento del biglietto verde hanno innescato il nuovo rally dell'oro, da sempre bene rifugio per eccellenza in periodi di forte incertezza. Tanto che fra gli esperti c'è chi non esclude una fiammata dei prezzi fino a $1,150 all'oncia entro la fine dell'anno, mentre si fa strada la prospettiva di un'impennata al picco di $2,000 nel 2012. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta, ma ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Saluto l'ascoltatore Sergio che dice: ma ci siete arrivati adesso all'oro? Non siete, voi sareste degli analisti, non siete neanche cronisti, per carità. Io non sono un analista l'ho invitato questa mattina, ma solo Mazziero e Binetti sanno quante volte negli ultimi mesi li ho scomodati per parlare di questo argomento, per cui non mi pare proprio di esserci arrivati adesso. Però adesso è il livello tale per cui probabilmente si richiede un'analisi più approfondita, e visto che gli ascoltatori anche nelle altre circostanze, per esempio in soldi e dintorni in cui abbiamo parlato delle opzioni di investimento in oro, sono apparsi molto interessanti, ci hanno chiesto di tornare ad approfondire queste tematiche, noi molto volentieri lo abbiamo fatto. Comincio con Mazziero. Abbiamo dato qualche motivazione relativamente a questa tendenza dei prezzi dell'oro, ci fa anche un po' di ABC Mazziero. Quando raccontiamo che crescono le quotazioni, esattamente a cosa ci riferiamo? Dove si formano i prezzi di questo metallo? Abbiamo detto a Londra, ma come è formato questo mercato? Sì, come è organizzato? Ecco, il mercato è principalmente guidato da degli attori che sono in buona sostanza le banche centrali, che normalmente si sono trovate a essere venditori di oro e che incrociano quella che è la loro offerta di oro con i produttori, quindi le miniere di oro, e con quelli che sono altri due attori, che sono la gioielleria e la domanda da investimento, quindi coloro che devono approvvigionarsi di lingotti o che poi vanno a stampare delle monete, delle medaglie e così via. Questi sono di fatto gli attori di questo mercato che si trovano, contrattano, e l'equilibrio tra offerta e domanda è quello che poi determina il fixing del prezzo. Lei è tra coloro che ritengono che il prezzo del metallo giallo sia destinato in prospettiva a crescere ulteriormente fino ad arrivare addirittura a $1,500? C'è chi fa delle proiezioni ancora più ardite, se vogliamo. Insomma, qual è la tendenza di breve e lungo periodo che vede? Ed anche in relazione chiaramente alla situazione economica internazionale. Ecco, allora, quando si parla di prezzi e quando vengono stabiliti dei valori, a mio modo di vedere è un esercizio abbastanza pericoloso, anche perché poi passerebbe un messaggio non corretto agli ascoltatori. Ci troviamo di fronte a domanda e offerta. Certo, in questo momento siamo di fronte ad acque inesplorate, quindi tutto può succedere. Allora dobbiamo cercare di andare a vedere quali sono le motivazioni fondamentali che ci stanno dietro. Ecco, è già stato accennato da lei poco fa, è soprattutto dovuto alla debolezza del dollaro. La debolezza del dollaro che deriva principalmente da una stampa di dollari che viene fatta dalla Federal Reserve. La Banca Centrale Americana, sì. E anche da un colossale indebitamento che gli Stati Uniti stanno accumulando. E quindi questo porta a una svalutazione. Automaticamente questo si ripercuote su un valore, e in questo momento vediamo una correlazione inversa, cioè si muove in maniera inversa l'oro. L'oro quindi ha toccato dei massimi assoluti, dei record, ma se andiamo a vedere altre valute non è così, perché ad esempio per quanto riguarda l'euro piuttosto che la sterlina non siamo sui massimi assoluti. Quindi in questo momento è soprattutto legato al dollaro, e il dollaro ormai essendo il più grande debitore al mondo non è più in grado di costituire una valuta di riferimento. Quindi... Ecco, c'è anche da dire che sicuramente, data la situazione economica americana, ma anche oltre a questa quella internazionale, ma riferendoci in particolar modo agli Stati Uniti, è chiaro anche che per rilanciare il commercio c'è anche bisogno forse di mantenere una divisa su questi livelli, anche se poi adesso stiamo uscendo dal seminato, però non so cosa ne pensa Mazziero, magari non c'è molto interesse da parte dell'amministrazione americana a fare in modo che il biglietto verde si rafforzi verso le altre divise. Assolutamente no, c'è una perdita di competitività delle industrie americane, quindi più si svaluta il dollaro meglio è, diciamo, più può esserci una penetrazione dei prodotti americani sulle economie mondiali. Certo che qui la lotta è molto dura, perché da un altro lato abbiamo i cinesi che diciamo sono i maggiori finanziatori di questo debito e che vedono continuamente svalutarsi le loro riserve. E se si stufa la Cina siamo a posto. Sì. Direi però di ritornare a loro. Allora, Roberto Binetti, di nuovo bentornato, amministratore delegato di Confinvest. Ne avevamo parlato di questa situazione con lui a Soldi e dintorni del 9 settembre, perché il nuovo record dell'anno dell'oro era stato stabilito proprio in quella giornata, e avevamo anche dato questo affresco statistico molto interessante secondo il quale il mese di settembre è storicamente un mese particolare per il metallo giallo, perché c'è un incremento della domanda reale in questo periodo da parte dei produttori di gioielli che accumulano scorte, vero Binetti? Sì, esatto. Innanzitutto l'esposizione di Mazziero è perfetta, assolutamente perfetta. E dobbiamo fare anche una constatazione che l'oro ha nuovamente raggiunto e superato $1,000 l'oncia, ma a differenza delle altre volte, questa volta è rimasto su questi valori. Pertanto non c'è stato un rimbalzo tecnico al ribasso e sta salendo. Adesso siamo a $1,053 l'oncia, sì. Pertanto è sicuramente rilevante. Veri i fattori che ha esposto Mazziero, vero anche che le coperture delle varie aziende di gioielleria della India, Pakistan, eccetera, anche le nostre italiane, hanno contribuito a questo rialzo del metallo. Questo è un dato fondamentale, è un dato certo. Però è chiaro, come diceva benissimo Mazziero, c'è delle problematiche diverse, che sono la preoccupazione di un'inflazione, la preoccupazione di un dollaro troppo basso e la garanzia che un risparmiatore va cercando per ottenere dei risultati diversi, maggiori di quelli che attualmente ottiene negli istituti bancari. Prima di cominciare, Binetti, ad esplorare, sì, poi dobbiamo parlare anche, come dire, della situazione statistica che accennavo, prima di parlare anche dei segmenti di investimento che è possibile sottoscrivere per chi volesse puntare sull'oro, lei vede anche dietro l'angolo, visto che abbiamo parlato anche di un mercato che è molto volatile, riferendoci alle materie prime, lo abbiamo detto sempre, fate attenzione se volete puntare su strumenti di investimento legati alle commodities, perché sono molto volatili e quindi, come crescono rapidamente, possono crollare altrettanto rapidamente. È possibile un crollo repentino dei prezzi dell'oro, secondo lei? Ma secondo me ci potrebbero essere dei rimbalzi tecnici di 20, 30, 50 punti, questo è possibile. Il metallo ci ha abituato a queste differenze anche negative, però il trend è sicuramente a salire. Insomma, una volta si parlava di $1,000 l'oncia come un'utopia, adesso si parla di $1,200, ma possiamo sicuramente raggiungere questi valori entro poco tempo. Però, ne facciamo sempre una questione di fisico, però in Italia noi investiamo nel fisico, non nel cartaceo. Questo è nell'immaginario collettivo, l'italiano preferisce avere il fisico, monete, lingotti e non carta. E infatti, è l'oro fisico, è quello che desidera Agostino dalla provincia di Salerno. Agostino, le do il compito di inaugurare le nostre telefonate di questa mattina, benvenuto. Salve, buongiorno. Buongiorno. Grazie innanzitutto dell'ospitalità. Grazie a lei. Io volevo sapere tecnicamente dove è possibile reperire eventualmente le monete e i lingotti e dal punto di vista fiscale come vengono tassate. Cioè, su queste monete mi risulta che si paghi l'IVA. Nel momento in cui poi si va a rivendere, quest'IVA chiaramente va perduta. Se questo trend così forte ci ha portato dall'inizio dell'anno a un aumento del 20%, nel momento in cui oggi io vado a realizzare, vanifico tutto il mio investimento. Quindi... Investire in oro è il tema che affrontiamo questa mattina alla luce del nuovo record, dei record anzi più volte toccati negli ultimi giorni da parte delle quotazioni del metallo giallo, $1,053 l'oncia, ce lo ricordava Roberto Binetti poco fa, questi nuovi record che sono stati stabiliti questa mattina. E allora è il caso di cominciare a guardare con più serietà all'investimento in questo segmento? Per la verità non scopriamo niente di nuovo, perché lo diceva anche l'amministratore delegato di Confinvest poco fa, in Italia abbiamo una certa attitudine a puntare sull'oro fisico, da tempo, poi cercheremo di capire con quali strumenti, grazie anche alla domanda dell'ascoltatore da Salerno, Agostino, che ci ha chiesto intanto il trattamento fiscale di un investimento di questo tipo, dove è possibile farlo, dove è possibile acquistare monete ed oro fisico. E adesso scioglieremo i suoi dubbi, però volevo anche rispondere ad alcuni ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666. Sono sempre più stupefatta di come siate preparati, quindi complimenti a tutti. Francesco da Napoli osserva: non mi sembra opportuno indicare come opportunità un settore che, come indicato da voi, è sui massimi storici. Maurizio Mazziero, analista finanziario, esperto di commodities, il nostro uomo delle materie prime, insieme a Roberto Capezzoli del Sole 24 Ore, che oggi non è con noi ma che salutiamo. Proprio Capezzoli scriveva stamattina che anche Jim Rogers, che è uno dei più grandi trader nelle materie prime a livello mondiale, ha detto che l'oro probabilmente salirà ancora, ma si è dichiarato restio ad investire perché dice: non mi piace acquistare qualcosa quando i suoi prezzi sono da primato. Che ne pensa? Penso che abbia ragione Jim Rogers su questo aspetto, e se andiamo a analizzare quanto è accaduto nell'ultimo anno e mezzo, effettivamente il tentativo di rompere questa soglia di 1000 o andare poco più in là in realtà si è tradotto sempre in un ritracciamento. Però ancora io cercherei di fare uno sforzo e non guardare quello che accade giorno per giorno. È innegabile che oggi ci possono essere anche delle spinte a mantenere il prezzo dell'oro all'interno di certi valori, e penso che dietro queste spinte ci possa essere la Cina, che deve accumulare ancora oro, ne ha ancora poco percentualmente all'interno delle proprie riserve, ma guardare più in là, ed è un panorama inflattivo che è dovuto a una grande emissione di liquidità. Questo da un lato, la sfida più grande comunque per tutte le banche centrali mondiali è quella di combattere la deflazione, perché la deflazione, come abbiamo visto anche in Giappone, rimanda gli acquisti. Quindi diciamo c'è un impegno per le banche mondiali di creare inflazione. Ebbene, se si crea inflazione significa che un valore che è sempre stato riconosciuto come riferimento e che è l'oro non può fare nient'altro che apprezzarsi. Questo non avverrà magari necessariamente oggi, entro la fine dell'anno o quando sarà, ma è solo questione di tempo e l'oro si apprezzerà ancora. Allora, Binetti, avevamo accantonato la domanda di Agostino da Salerno, che voleva sapere concretamente dove si comprano le monete, dove si comprano i lingotti, allo stesso posto dove si può andare per comprare ambedue gli articoli. Gliela butto lì così in maniera molto, molto banale. E poi ecco, dal punto di vista fiscale, come vengono gestiti questi investimenti? Ecco, qua bisogna essere molto precisi. Tutto il settore, tutto il comparto è regolamentato dalla legge 7/2000, una legge che ha tolto il monopolio e ha tolto l'IVA, attenzione. Pertanto oggi l'oro fisico, l'oro puro, i lingotti o le monete possono essere fornite, anzi devono essere fornite assolutamente senza IVA, senza spese, senza commissione, cioè perché la moneta o il lingotto di fatto sono ora considerate degli strumenti di investimento. Pertanto l'IVA non c'è più, cioè qualsiasi fatturazione con IVA è una fatturazione illegale, pertanto il privato deve fare molta attenzione e si deve rivolgere ovviamente solo a strutture autorizzate dalla Banca d'Italia, questo è un fondamentale. Benissimo. Noi come Confinvest per esempio consigliamo un investimento in sterline oro. Perché la sterlina oro? Innanzitutto perché è la moneta nell'immaginario collettivo e non solo nell'immaginario più importante al mondo, cioè ne sono stati coniati veramente una quantità pazzesca, ma anche perché noi forniamo le sterline esattamente calcolando l'intrinseco dell'oro puro contenuto. Pertanto acquistare del lingotto o acquistare delle sterline calcolando solo l'intrinseco oro puro è la stessa cosa. Pertanto in questa maniera è chiaro che ci sono possibilità speculative, perché non ci sono plusvalenze che si pagano perché è una moneta o perché è una moneta numismatica o per altri motivi. Pertanto siamo esattamente alla pari del valore del lingotto. Hanno un contenuto d'oro poco superiore, scriveva Roberto Capezzoli, peraltro interpellando lei, le sterline a cui si riferiva, poco superiore al 900 per 1000. Le più nuove, quindi il conio più recente, meno soggette a graffi e perdite di peso, hanno un'effigie Elisabetta II, sono le più apprezzate dagli investitori italiani, è così? Sì, di fatto la regina Elisabetta II di fatto è la moneta più importante, ma non solo in Italia, che viene utilizzata per queste forme di investimento. Ci sono anche altre monete, Krugerrand, sudafricano? Sudafricano, i marenghi, eccetera. Però con la sterlina si ha una notevole facilità di monetizzazione in tutte le parti del mondo, in particolar modo in Europa, insomma, ecco, non ci sono difficoltà assolute. Chi fa intermediazione di monete, binetti, fa intermediazione anche di lingotti? Sì, sicuramente sì. Ripeto, la legge 7/2000 disciplina questa materia e pertanto un autorizzato può vendere sia monete che lingotti, ovviamente può comprare sia monete che lingotti. Quindi senza IVA, assolutamente senza IVA. Per dare un'indicazione pratica al nostro ascoltatore di Salerno che probabilmente magari potrà così un po' controllare nella sua città se c'è un suo collega Binetti che fa questo tipo di commercio, quindi per poter individuare un soggetto giusto bisogna chiamare la Banca d'Italia e chiedere le strutture autorizzate nella sua zona, oppure si può rivolgere anche noi direttamente, che noi facciamo spedizioni in tutte le parti d'Italia perché siamo fiduciari di quasi tutte le banche in Italia. Allora magari ad Agostino, se riusciremo più tardi, faremo noi questa, no, a parte metterla in contatto con lei, magari faremo anche un controllo sul sito della Banca d'Italia se è facile. Sì, è abbastanza facile, esatto. È un ufficio nuovo IFA che dà l'elenco di tutte le strutture autorizzate. Benissimo, allora abbiamo intanto il nostro super fedele ascoltatore da Varese che è Gianni, che è pronto ad intervestire. Gianni, le chiedo solamente ancora un attimo di pazienza perché volevo ritornare a Maurizio Mazziero. E oltre a loro, Mazziero, quali altre materie prime adesso stanno correndo particolarmente, se ce ne sono, oppure c'è una relativa calma e tranquillità in questo ambito? Dunque, senz'altro anche l'argento che in questo momento anzi si trova... È bene perché c'è un ascoltatore, Emanuele, che ce lo ha scritto. Preferisco l'argento, dice. In effetti quello che possiamo riscontrare in questo momento è che il dollaro con la sua debolezza va primariamente a pilotare la quotazione dell'oro. Poi in realtà ci si rende conto che il dollaro e l'argento sono sempre stati storicamente agganciati da dei rapporti e in questo momento questo rapporto è eccessivo. Quindi diciamo che in teoria l'argento dovrebbe rivalutarsi maggiormente rispetto alla rivalutazione dell'oro, quindi riportandosi a dei livelli che potrebbero essere quelli più corretti. Altri metalli in tensione, sì. Sì, diciamo che poi altre materie prime, chiaramente stiamo parlando ancora del petrolio, però qui ci agganciamo anche a una dinamica proprio di domande e offerte, quindi di andamento dell'economia e quindi consumo di petrolio. Si è parlato anche all'inizio di trasmissione di metalli. Probabilmente i metalli sono guidati da un'altra dinamica, che è una prospettiva di crescita dell'economia, e abbiamo avuto, soprattutto per quanto riguarda il rame, un forte accaparramento da parte dei cinesi. Probabilmente per il rame invece avremo un po' una pausa. Possiamo invece considerare invece che gli agricoli sono molto scesi dopo una grande fiammata che abbiamo avuto tra il 2007 e il 2008, e questi potrebbero essere, diciamo, la prossima scommessa insieme allo zucchero, che ha anche un valore diciamo energetico, in quanto dallo zucchero si ricava poi l'etanolo. Benissimo, allora siccome Gianni è un nostro stra affezionato ascoltatore, io sono sicura che ci permetterà di lasciarlo lì ancora per qualche secondo, perché c'è Valeria da Milano che aveva già prenotato la sua chiamata da un po', poi è caduta, e siccome è una signora la facciamo passare avanti. Gianni, ce lo consenta. Valeria, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Può abbassare la radio cortesemente? Perché abbiamo... sto abbassando la radio. Grazie, perché abbiamo un ritorno pazzesco. Volevo solo dire, io sono, diciamo, dall'altra parte, in quanto esercito la funzione di gioielleria, no? Sì. E quindi anche per noi il problema è... approvvigionarvi. Mi scusi, non ho capito. Approvvigionarvi, intendevo dire, comunque comprarlo. Sì, esatto. No, abbiamo regolarmente clienti che magari... ci chiedono il parere, ovviamente anche noi non siamo in grado, non siamo maghi, non potremmo mai. Certo, ci viene, diciamo, tra le virgole, un po' rinfacciato, diciamo così, che però l'oro, nel caso del lavorato, è poi destinato comunque a perdere di valore, perché si perde la manifattura, si perde l'IVA, eccetera, eccetera. Allora io il parere che dico alle clienti, non deve essere in questo caso considerato un investimento, ma diciamo un bene di rifugio. Tipo uno compra una borsa griffata E poi ovviamente la va a rivendere lì, è sicuro che non prenderà mai la cifra che... Io la mia borsa griffata non la venderei mai. Il valore intrinseco che proprio comunque rimane, certo, ad essere. Questo è un primo parere. Secondo, ovviamente uno non può comprare il lingotto e pretendere di metterselo al collo, perché noi siamo anche dalla parte che sta soffrendo molto proprio per l'aumento dell'oro, diventa difficile da vendere, mentre magari ci sono ragazzi che sono disposti a spendere 200, 300, 400 euro per dell'acciaio definito gioiello e poi, voglio dire, le valderanno in ferramenta questo. Beh certo, credo che Valeria, qui, come per ogni settore di investimento, anche quando decidiamo, qualora lo decidessimo di fare, volessimo puntare appunto su un settore così particolare, è chiaro che anche lì poi c'è il taglio giusto a seconda del nostro profilo di investimento. Binetti, giro a lei la considerazione della nostra ascoltatrice che ci parla proprio dall'altra parte del banco, come sì, venditrice. Sì, bisogna fare un distinguo assoluto, però un conto è il prodotto di oreficeria che serve per regalistica come oggetto, come monile, che pertanto ha una sua caratteristica precisa, e un conto è l'oro da investimento, su due cose distinte e separate, insomma. Ovviamente in questo periodo le oreficerie hanno delle grosse difficoltà. Però giustamente, come dire, l'utente medio, quando gli si propone l'investimento in oro, la prima cosa a cui pensa è la gioielleria, in ogni caso una bella collana, sì, però un bel monile, la plusvalenza che paga nell'acquistare un oggetto ovviamente non la paga acquistando un lingotto, una moneta. Pertanto prima di recuperare eventualmente questa plusvalenza, non potendo vendere poi l'oggetto, perché dopo l'oggetto risulta usato e non ha certo lo stesso valore del nuovo, non riuscirà mai a coprire, se non in tempi lunghissimi, queste differenze tra l'intrinseco dell'oro e il valore dell'oggetto. Quindi la manifattura praticamente si svaluta molto più rapidamente rispetto... Non si può più recuperare, insomma, ecco, questa non si recupera. Oggi la manifattura è pesante, si parla di 25-30%, secondo anche poi ovviamente l'oggetto, l'importanza dell'oggetto, le caratteristiche. Sono cose completamente diverse. Io però vorrei fare prima, se mi permetti, una considerazione in quanto riguarda il collega Mazziero. Ha detto giustamente che l'argento potrebbe in futuro anche aumentare come valore di più del metallo. Questo è verissimo, però noi stiamo parlando di investimenti, eventualmente domani di recupero vendendo questo tipo di investimento. Cioè vendendo l'oro non ci sono difficoltà, vendendo l'argento ci sono delle grosse difficoltà, perché non c'è un mercato oggi come oggi che acquisti da privato, da un investitore d'argento, se non in grandissime quantità. Pertanto lei capisce che mettere via un chilo d'oro, il moneto, il lingotto ha un senso, metterne, ecco certo, quindi bisogna considerare anche la liquidità. Valore in argento ci vuole 10 volte tanto anche di spazio. Peraltro, cosa la differenza che si può fare anche rimanendo nell'oro, Binetti, che si può fare se si ha in portafoglio una moneta d'oro, quindi una bella sterlina Elisabetta II, piuttosto che un lingotto, perché anche lì magari la liquidità dei mercati di riferimento è differente. È un pochino più difficile vendere i lingotti in Italia, certo, che non le monete d'oro, sì. Allora, eccoci di nuovo in diretta. Io intanto a Maurizio Mazziero lo sollecito su una cosa, su una equazione, un'equivalenza, adesso non mi ricordo come si chiama. Un ascoltatore ci ha chiesto di comunicargli il prezzo in euro al grammo dell'oro. Io adesso non riesco a fare il conto, quindi Mazziero, prendo una calcolatrice, lei che sicuramente ce l'ha portata di mano, e all'ascoltatore lo accontenteremo tra pochissimo. Volevo un attimo tornare a Roberto Binetti per chiedergli un'altra cosa, perché un ascoltatore chiede: ma le monete o i lingotti, qualora decidessimo di investire in questi, che uno compra, dove vengono custoditi? Binetti, hanno bisogno, come dire, anche di una manutenzione, mi viene da dire, non so come... No, assolutamente no, il metallo non si rovina, insomma, non è questo. Poi dipende problema anche quanto uno ne compra, perché esatto, voglio... ovviamente viene tenuto nelle cassette di sicurezza o in cassaforte, questo che... è logico, è una questione di furti, di problematiche. Che tagli hanno i lingotti, Binetti? I lingotti vanno da 10 grammi a 1 chilo, queste sono le pezzature. Qualche lingottino... Più piccoli sono, più incide la manifattura, e pertanto allora il 10 grammi può servire come regalistica della nonna al nipotino, ma non certo può servire per fare un cumulo o un accumulo di lingotti per fare un chilo d'oro come investimento. Pertanto per un investimento si devono acquistare lingotti senza, con pochissima manifattura, pertanto da 500 grammi a 1000 grammi. Benissimo. Gianni da Varese, eccoci a noi. Buongiorno, signor. signorina, complimenti per la trasmissione, siete bravissimi. Senta, io parte della mia domanda, ho già risposto prima all'esperto. La seconda parte è quello che volevo chiedere, se sono migliori per un piccolo investitore di lungo periodo gli ETF o gli ETC e come funzionano, insomma, specificare un attimino come funzionano. Grazie mille, buongiorno. Grazie a lei Gianni, grazie a lei. Allora, ETF e ETC, diciamo che l'ETC non ha una differenza con l'ETF, adesso spieghiamo di che cosa si tratta, perché praticamente è l'equivalente, Maurizio Mazzieri mi aiuti lei, è l'equivalente ETF in commodities. Sì, esattamente. Ecco, so che stiamo dando delle parole. Inizierei intanto con la domanda. Sì, che con, la, con l'equivalenza che le ho chiesto. Con l'equivalenza. Allora, in questo momento l'oro costa qualcosa come 713,63 euro l'oncia, che corrisponde a quanti grammi? In euro al grammo a 22,94 euro al grammo. Benissimo, allora adesso i prodotti di investimento finanziari per puntare sull'oro. Ha già detto l'ascoltatore appunto di essere interessato agli ETC, che sono proprio gli ETF delle materie prime. Come funzionano? Sì, allora gli ETC sono gli ETF basati su materie prime ce ne sono di due tipi, quelli che investono su dei contratti a termine che si chiamano in terminologia future e quindi questi sono contratti che terminano a scadenza regolare ogni mese piuttosto che ogni due o tre mesi e quindi quando si arriva vicini alla scadenza bisogna passare sulla scadenza successiva, oppure quelli che ci sono per le materie prime in metalli preziosi che vanno a investire direttamente sul fisico, cioè vanno ad acquistare lingotti. Ecco, li troviamo per i metalli preziosi che sono oro, argento, palladio e platino e in questo caso diciamo io consiglierei, se uno vuole percorrere la strada dell'investimento utilizzando gli ETF o ETC, di non acquistare quelli sui future ma di acquistare quelli proprio che vanno a comprare il fisico. Hanno una, all'interno della loro denominazione c'è scritto physical gold ad esempio. Ci sono anche dei diciamo che l'ETF è un fondo di investimento passivo, come abbiamo avuto modo di spiegare più volte, che si negozia in borsa come se fosse un'azione, quindi bisogna conoscere anche la dinamica del funzionamento di questo prodotto di investimento. Le chiedo anche, Mazziero, se ritiene che per esempio puntare sulle società aurifere quotate in borsa sia una buona opportunità adesso. Potrebbe essere, però a questo punto si dovrebbe avere l'avvertenza di puntare su un indice composito e quindi una diversificazione. Una diversificazione. E puntare fra quelle che non effettuano una copertura sulla variazione dei prezzi, perché questo diciamo potrebbe causare degli effetti indesiderati. Insomma, si è visto quando ad esempio l'oro andava giù, quindi c'erano poi dei fenomeni anche di default da parte di queste aziende, quindi bisogna ricercare un po', ecco, potrebbe avere senso comunque. Allora sentiamo Claudio D'Ancona, che sta lì praticamente dall'inizio della trasmissione, l'ultima domanda di oggi. Buongiorno Claudio. Buongiorno. È rapidissimo. La trasmissione me la sono persa perché ero qua. La recupera sul sito di Radio 24. Auricolare, ho sentito pochissimo, il segnale era... Guardi esatto. Claudio, la recupera sul sito di Radio 24, che oggi ha avuto qualche problema, ma stiamo ripristinando, poi in podcast lo può scaricare, può risentire la trasmissione e anche scaricarla. Proverò. Io chiedevo semplicemente questo, che poi credo che qualcuno mi abbia anche anticipato. E praticamente io circa 3 anni fa mi sono rivolto a un istituto di credito, a una banca, semplicemente per comprare dei titoli o comprare fisicamente oro, così, e loro niente, mi hanno detto noi non trattiamo, la banca anche a livello nazionale, non trattiamo, non facciamo di queste operazioni, semplicemente il direttore della filiale mi ha indirizzato a dei broker senza garanzia, senza niente, che ho lasciato perdere. Infatti, come... non... quindi insomma bisogna trovare la figura certificata, Claudio, per un investimento di questo tipo. Allora guardi, io faccio concludere la nostra puntata a Roberto Binetti con le ultime raccomandazioni proprio rivolte a chi come Claudio fosse interessato a questo investimento ma va in banca e non trova una grande disponibilità, anche perché appunto la banca non fa esattamente questo lavoro, al limite le può aprire una cassetta di sicurezza e farle depositare i suoi lingotti o le sue monete o qualcos'altro. Binetti. Ha ragione Claudio, fino a maggio del 1982 quasi tutte le banche facevano opera di intermediazione nell'oro, comprando, non si poteva il lingotto e compravano e vendevano sterline. Poi dal 1982 a maggio, con l'applicazione dell'IVA, moltissime banche hanno smesso servizio. Adesso alcune hanno ripreso e con noi Confive cercano nuovamente di avere questo tipo di rapporto proprio per dare delle consulenze alla clientela. E questo purtroppo è un problema che noi cerchiamo di ovviare, ma facciamo molta fatica perché le banche sono ancora restie di entrare in questo settore. L'importante, come dicevo prima, però, è rivolgersi solo e esclusivamente a settori e a strutture autorizzate dalla Banca d'Italia e poi potete mostrare la patente della Banca d'Italia qualora ve la chiedessero. Sì, c'è un numero di appartenenza. Benissimo. Poi l'importante è alla mattina di guardare per esempio proprio il Sole 24 Ore, che ha una bellissima tabella metalli preziosi dove riporta denaro e lettera. E chissà chi la compila critica. Questa tabella, Binetti, lei lo sa? La compila lei, lo sappiamo bene, Confinvest. La facciamo noi Confinvest per tutti i quotidiani in Italia. Grazie. Comunque sono delle quotazioni indicative però che servono per rendere più trasparente il mercato. Ecco, benissimo. Io devo salutarvi rapidamente perché sono in ritardo, è stata una gran bella puntata, allora ci ritorneremo molto presto ad esplorare questo settore di investimento perché ho visto che ha suscitato una grande curiosità nei nostri ascoltatori. Grazie a Roberto Binetti, Maurizio Mazziero, i nostri ospiti, a Gaia Romani e ad Alessandro Longoni, i miei assistenti in redazione, Carmelo Lauricella oggi in assistenza tecnica. Noi torniamo domani con voi ci sarà Valentina Furlanetto, noi ci risentiamo lunedì. A tutti un caro saluto.